Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 23 novembre, buongiorno, bentornati di nuovo a tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, questo spazio che fa da ponte tra il carcere e la città e che va in onda tutti i giorni, un'ora al giorno, su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina, alla conduzione con Antonella Cortese della nostra trasmissione. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E come al solito partiamo dalle notizie anche oggi. Abbiamo una bellissima storia di resilienza. Siamo a Lecce, dal carcere alla cucina di un hotel, la storia di Fulvio Rizzo. Leggo sulla Repubblica a firma di Francesco Oliva. Fulvio Rizzo ha 51 anni, 22 dei quali passati in cella, e ora racconta in un libro come la sua passione per il cibo gli abbia cambiato la vita. Prima la vita cambiata tra le mura del supercarcere di Trani e poi, una volta uscito, dandogli una seconda possibilità lavorativa, naturalmente. Quindi lui in questo libro racconta la sua esperienza in carcere, dove ha subito soprusi, ingiustizie, ma dove ha anche imparato il mestiere che ora svolge con tantissima passione da circa 10 anni. Lui dice: sono un cuoco e non uno chef, e la sua passione per la cucina si è rivelata un balsamo, diciamo, per attendere il fine pena e concedergli una nuova chance appena tornato in libertà. E Caterina, ma ora Fulvio cosa fa? È ancora cuoco? Eh sì, ora Fulvio, infatti il titolo lo dice, dal carcere a un hotel, gestisce un albergo e un ristorante e collabora anche nella stesura di opere teatrali, ha scritto anche il libro di cui vi sto raccontando, che è la sintesi perfetta dei suoi 51 anni, infatti il titolo è Diventare chef, aperta parentesi, nonostante tutto. Nei giorni scorsi ha presentato quindi la sua prima fatica letteraria, in cui il cui ricavato sarà destinato all'associazione Antigone, che come sapete è l'associazione che fa per noi le rubriche e le pillole di Antigone e che da anni, da tanti anni, si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale. E anche Fulvio Rizzo di battaglie ne ha fatte, ma ne ha vinte anche tante. Ma non c'è solo il calcio, naturalmente, nella vita di Fulvio, perché da ragazzino ci sapeva fare con il pallone, per tanti rappresentava un po' la promessa del calcio salentino. Poi però arrivarono le cattive amicizie, gli anni anche un po' vissuti negli ambienti della malavita, fino a portarlo anche in carcere, per errori anche non suoi, purtroppo. Dietro le sbarre ha visto il buio ma anche la luce, e fra la luce, ecco, le amicizie coltivate, sicuramente il fatto che abbia preso il diploma in ragioneria e successivamente anche la laurea in sociologia. Lui dice: ho fatto degli errori in gioventù, ho trascorso tanti anni dietro le sbarre, 22 per l'appunto, per colpe non mie, ma la vita mi ha riservato altre opportunità. Caterina, scusami, levaci questa curiosità. Non ci ha ancora raccontato in che modo sia nata la sua passione per i fornelli. Allora, lui era detenuto nel carcere di Trani e quando si è avvicinato per la prima volta ai fornelli. In che modo? Dopo una protesta per il cibo scadente, e queste proteste sono abbastanza all'ordine del giorno per le carceri, il direttore del carcere gli propose di allestire una squadra di cucina. E lui lo fece ed è stata la decisione che gli ha cambiato la vita. Inizia un percorso di cucina e il cibo si è rivelato qualcosa di eccezionale, anche, pensa, per condividere quei 30-40 minuti giornalieri con i suoi compagni di cella e parlare di altro, semplicemente per vivere. Caterina, ma qual è la sua specialità in cucina? E poi a questo punto allarghiamo a tutte le persone che ci ascoltano, dalle camere detentive ovviamente, dove tra l'altro ricevono anche la nostra rubrica Chef al fornelletto di Fomal. E qual è la vostra specialità in cucina? Che cosa vi piace preparare? Ecco, beh, tornando alla tua domanda, da quello che mi sembra di capire un po' di Fulvio Rizzo, che rimane anche abbastanza modesto nelle sue capacità, la sua specialità è la lasagna di Portofino, non so se l'hai mai sentita nominare, che non è a base di carne come il nostro piatto tipicamente emiliano-romagnolo, ma è a base di besciamella, pesto e gamberetti. E fu ideata in cella da lui, fu un'innocente evasione, lui la chiama, e come risposta a una guardia che una volta gli disse che il suo mare salentino non l'avrebbe mai più rivisto, e allora Rizzo invece non ha mai mollato. E oggi, insieme al suo socio e fratello, come dice lui, Gigi Perrone, che è anche l'unico maestro che abbia creduto in lui, ha aperto un ristorante apprendendo velocemente anche i trucchi del mestiere. I primi anni non sono stati semplici, come non lo è per nessuno all'uscita dal carcere. Rizzo doveva rientrare in carcere sempre entro le 21 quando era in semilibertà. Capite che non è facile quando gestisci un'attività di ristorazione. Ma sono stati anche gli anni dei concorsi in cucina, dei riconoscimenti, e ora eccolo qui, pronto a dispensare anche suggerimenti, consigli su come preparare le pietanze, e tutto questo, dice lui, anche con un pizzico di emozione, non sarebbe mai stato possibile se non avessi avuto al mio fianco una donna speciale come mia moglie e mia figlia, che ho ritrovato fuori già donna e imprenditrice. E allora, a persone come lui e voi anche, che avete fatto sicuramente i vostri percorsi di resilienza, dedico Bruce Springsteen con Thunder Road, che è la prima traccia memorabile di Born to Run ed è la speranza della rivincita per chi non ce l'ha fatta e che la rende anche attuale ed efficace nel tempo. Una canzone uscita nel 1975. Ascoltiamola. Screaming Merry Christmas. Like a vision, she dances across the porch as a radio plays. Chorus singing for the Lord. It's me and I watching you on. Turn me on again. Just can't face myself alone anymore. Don't turn back inside, darling. You know just what I'm here for. So you scared me thinking maybe that you're ready for. Oh yeah, that's all right with me. Your life comes in steady pain. Rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Riprendiamo con il nostro martedì, che oggi è itinerante e ci porta in Messico. Antonella, l'hai mai visto? No, non ancora purtroppo, però è una delle mete future, spero, sempre che si possa viaggiare con più tranquillità. Comunque, pensa Caterina che il Messico in realtà non è secondo a nessuno, perché è un paese grande con un sacco di cose. E pensa all'incredibile trasparenza delle acque del Mar dei Caraibi, l'imponenza delle piramidi azteche, dei tempi maya e delle cattedrali barocche, la grandiosità dei canyon, le enormi foreste. Attualmente il Messico ha 26 siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e 59 aree naturali protette, pensa un po'. E fino anche alla grande varietà delle sue città, dallo splendido contesto caraibico di Tulum, che è famoso, una meta turistica molto, molto popolare, ai vivaci colori delle pitture murali di Bonampak nel cuore della giungla, alle decorate facciate rosse di Mitla. Insomma, c'è un po' di tutto. È un paese ricco di contraddizioni, come sappiamo, dove la bellezza convive con la povertà, la magia mistica dei ruderi precolombiani con la violenza delle strade, soprattutto dei quartieri di periferia. Il narcotraffico è molto diffuso, lo sappiamo tutti, però secondo me un viaggio in Messico è un'esperienza molto importante, un'esperienza di vita. Guarda, neanche io ci sono mai stata, ma conoscevo un'amica che era proveniente dalla capitale, Città del Messico. E mi diceva che è talmente grande che è incredibile, è impossibile che le persone che abitano in quella città si reincontrino anche nel corso di una vita. Sì, è una delle città più grandi in realtà, Ciudad de México, del Distrito Federal o DF come lo chiamano loro, che è stata fondata nel 1521 dagli spagnoli, sul luogo dove sorgeva l'antica capitale azteca, che dominò poi praticamente gli altipiani centrali per un paio di secoli. E Città del Messico, come dicevi, è una città colorata, godereccia, rumorosa, inquinata, affascinante. Una delle più grandi città del mondo, è interessante arrivarci partendo dall'esterno, mi hanno detto. Chi c'è stato, appunto, che in questa enorme megalopoli, dice che è bello partire dalla periferia per arrivare verso il centro. E poi, tra l'altro, ha un cuore verde notevole, che è il bosco di Chapultepec, con alberi centenari e un'area picnic e laghetti vari. Ma pensa che a due passi dal parco c'è anche il Museo di Antropologia, creato appunto da Pedro Ramírez Vázquez, che è grande 44 metri quadri, in cui ci sono all'aperto la più grande collezione del mondo di oggetti e tesori precolombiani, quindi una cosa assolutamente da non perdere. Come pure la zona di Coyoacán, con viali alberati, caffè all'aperto, ca la casa museo di Diego Rivera. Diego Rivera, se ti ricordi, era il famoso compagno di Frida Kahlo, una storia d'amore contrastatissima, tra l'altro, e poi diciamo casa museo anche di Leon Trotsky e della stessa Frida Kahlo che abbiamo appena nominato. Poi il centro storico di Città del Messico è chiamato Zocalo e prende vita da Plaza de la Constitución, che è la quarta piazza più grande del mondo, se vogliamo rimanere sempre in termini di dimensioni. E sulla piazza si affaccia la cattedrale, la più antica dell'America Latina e anche la più grande, ovviamente, che dire. E accanto alle rovine del Templo Mayor, scoperte nel 1978. E poi sempre sulla piazza c'è il Palacio Nacional, costruito sulle fondamenta del Palazzo Moctezuma, e in seguito appunto divenne la residenza dei viceré spagnoli, e oggi invece è la sede del presidente, degli uffici del presidente. Un altro primato messicano, tanto per rimanere in tema, è il Mercado Merced, il più grande delle Americhe e vecchio di addirittura 400 anni. Pensa che si estende per svariati isolati, quindi ci puoi stare anche 10 ore in un mercato così grande. E infine c'è il Palacio de Bellas Artes, che è un grande, vistoso edificio interessante soprattutto per gli appassionati di Art Deco, e perché ospita moltissimi dipinti antichi, un teatro, una libreria, insomma, tante cose. In Messico si parla spagnolo, ma credo che sia diverso dallo spagnolo della Castiglia che si parla in Spagna, vero? Allora, il castigliano e lo spagnolo dell'America Latina sono piuttosto diversi. È molto interessante, se si studia spagnolo, cominciare proprio a capirne le differenze lessicali di struttura, ma anche proprio il suono, che è molto diverso. Se penso allo spagnolo dell'Argentina e a quello della Colombia, c'è una diversità pazzesca. Pensa per esempio che autobus, in Spagna si chiama autobus, in Colombia bus, e in Messico camion, oppure appartamento, in Spagna lo chiami piso, in America Latina appartamento o departamento. L'ultima cosa che ti voglio dire al volissimo è che la religione predominante è quella cattolica, anche se poi ci sono anche altre confessioni, ovviamente, ma sono minoritarie, e lo sport più diffuso è la cosiddetta charreria, una specie di rodeo, mentre poi il calcio chiaramente è diffuso, come è diffuso un po' dappertutto. Sono molto seguiti anche il baseball, nuoto e pugilato. Però per restare in Messico non possiamo che tirare in ballo il nostro Paolo Conte con Messico e nuvole. Lei è bella, Ascoltiamolo. lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e metto solo la sua armonica che voglia di piangere. Intorno a lei, intorno a lei, una chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. È il mio amore per lei che i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Sì, ma sono sentimenti di contrabbando. Tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica che voglia di ridere. Oh. E rieccovi, bentornati per la seconda parte con l'ospite, sempre su Liberi Dentro di Radio TV. Abbiamo con noi per tutta la settimana Isabella Matulli, a cui do il benvenuto. Ciao, eccoti di nuovo qui. Ciao Caterina. Dico di nuovo perché in realtà noi ci vediamo in carcere tutti i giovedì e infatti sei un volto noto perché sei volontaria AVOC, una missionaria laica dell'AMI e già responsabile del Centro Missionario di Faenza. Allora Isabella, intanto grazie di essere qui. Molti dei nostri teleradio ascoltatori, come dicevo, forse conoscono già il tuo volto perché sei volontaria AVOC presso la Casa Circondariale di Bologna, ma su questo torneremo poi di seguito, perché oggi vorrei concentrarmi sulla tua attività di missionaria presso l'Associazione Missionaria Internazionale per l'appunto AMI, che è nata nel 1989 a Faenza. Intanto raccontaci come nasce e dove opera. Allora, intanto grazie Caterina per la preparazione, ne sai quasi più di me, dell'AMI. Allora, l'AMI, appunto, Associazione Missionaria Internazionale, già dal suo nome, contiene un po' le sue caratteristiche principali, no? Che sono l'accoglienza, la missionarietà e l'internazionalità. Perché siamo appunto nati internazionali, nel senso che siamo nati da due esperienze che si sono messe assieme, cioè un gruppo di missionarie, italiane, indiane e africane che provenivano da un'esperienza precedente. Parliamo di missionarie agente, questa è una parola un po' tecnica per addetti ai lavori, cioè i missionari agente sono i missionari che si recano all'estero, lontano dal loro paese d'origine, e questa esperienza ha incontrato un'altra esperienza di un gruppo di famiglie o fidanzati o single che, seguiti da un sacerdote di Faenza, e così stavano facendo un percorso per dare appunto una dimensione missionaria alla loro vita. Da questo incontro è appunto nata l'AMI, non tantissimi anni fa, quindi siamo ancora così un po' giovani se vogliamo, e appunto siamo giovani e come tutti i giovani siamo anche un po' presuntuosi perché numericamente siamo abbastanza pochi, però siamo sparsi in tre continenti, e in Italia, e in India, visto che l'India insomma è questo stesso subcontinente, abbiamo pensato bene di metterci in cinque stati, e tant'è che le nostre missionarie, quelle che vivono al nord, quando vogliono incontrare quelle che stanno al sud, ci mettono circa 3 giorni di treno, e poi siamo in Africa. Attualmente siamo in Tanzania e con tanti rimpianti, non siamo più in Eritrea, da cui ci hanno espulso nel 2009, quindi penso che ne parleremo un po' più avanti. Certo, quindi siete non tantissimi, dici, però fanno parte di questa associazione non soltanto le missionarie dell'AMI, ma anche gruppi apostolici e tanti amici e volontari, vero? E come vi gestite i ruoli, mi chiedo? Allora, diciamo che il tentativo sarebbe quello di vivere un po' come una famiglia, cioè nel senso che l'AMI è formata da tre gruppi al suo interno, le missionarie, che sono appunto delle laiche consacrate, cioè che hanno appunto preso degli impegni, i missionari e appunto il gruppo apostolico che è costituito per lo più da coppie, anche se possono aderire anche dei single. E attorno a questi tre nuclei c'è tutto un pullulare di gente. In primis quelli che noi chiamiamo l'IGIMA, il gruppo di impegno missionario AMI, cioè delle persone che ogni 2 anni rinnovano la loro voglia appunto di vivere in maniera missionaria, generalmente nel loro paese d'origine, ma tutti loro, o quasi, li abbiamo conosciuti dopo che hanno fatto un'esperienza importante in Africa o in India, no? E hanno voluto in qualche modo proseguire, insomma, questa esperienza, impegnandosi in questo caso in Italia o in India o in Tanzania, insomma, diciamo nel loro paese d'origine. E poi appunto c'è tutto un pullulare di volontari che ci dà una grossa mano, perché senza di loro non si potrebbe fare tanto, e di persone che invece magari aderiscono ai momenti di preghiera, sono interessati alla formazione, eccetera. Diciamo che i livelli di adesione e partecipazione sono diversi, no? Un po' come una famiglia, cioè in una famiglia ci sono dei genitori e ci sono poi cugini, parenti di vario grado, e comunque quando si arriva a Natale si mette tutti assieme, non si sta a fare delle distinzioni, no? Certo, e una cosa che rimane un po', forse non l'ho ancora chiesta perché credo che in realtà poi sia la più importante, è una scelta questa di vita missionaria. Ma cosa significa vita missionaria e perché tu hai scelto questa vita? Allora, cosa significa? Diciamo, è un po' difficile rispondere perché è una risposta che bisogna darsi un po' tutti i giorni, nel senso che non è che uno per la propria vita, ma penso qualunque tipo di stato di vita, di situazione, si decide una volta per tutti. Ognuno prende in mano la propria vita ogni giorno, no? E rinnova la sua decisione. E essere missionari vuol dire tecnicamente essere mandati, nel nostro caso appunto c'è un invio che è motivato fortemente dalla fede, no? Essere mandati a chi? Essere mandati ad altri, no? E nel nostro caso altri lontani, spesso lontani geograficamente, a volte anche magari lontani non dal punto di vista geografico, ma lontani perché allontanati, no? Perché o si sono allontanati o sono stati allontanati, sono stati emarginati. E cosa siamo andati a fare? Siamo andati ad annunciare il Vangelo, ma sappiamo benissimo che non si può dire che Dio è un buon padre, no? Se non ci si comporta verso queste persone allontanate come fratelli, no? Quindi generalmente noi cerchiamo di offrire dei servizi a carattere socio-sanitario, quindi abbiamo costruito ospedali oppure prestiamo servizi appunto in ospedali o in ambulatori, in centri per disabili o lebbrosi, questo ovviamente dove non ci sono questo tipo di strutture, quindi parlo di India e Africa, e poi mentre invece sotto il termine sociale capite che si va tantissima roba, insomma, no? Quindi non so ad elencare il tipo di servizi. Conta molto sicuramente nell'essere mandati la decisione di chi manda. Quindi è un abbandono totale a una scelta di qualcun altro o c'è anche una scelta personale nel dove andare? Allora, diciamo che intanto è una scelta che deve avere una buona dose di incoscienza, perché altrimenti se non si mettesse a fare i calcoli, diciamo, con una logica umana, non farebbe neanche il primo passo. Incoscienza che poi diventa fiducia, no? Nel senso che appunto se si ha uno sguardo di fede sulla vita, si vede che le nostre vite sono guidate da un disegno provvidenziale, comunque un disegno buono. Il dove, diciamo che in associazione, il dove lo si sceglie assieme, non c'è, diciamo, un dirigente che dice allora te, prendete su, no, e andate Io rido perché cioè, è un po' un paradosso, no? Nel senso che in passato chi faceva dei malestri di solito veniva mandato nelle missioni, no? Cioè, chi creava problemi così per togliersi dai piedi veniva spedito in Africa e poi ce lo si dimenticava lì. E quando invece si fa parte di un'associazione missionaria, di solito si scalpita per andare in Africa o altrove, mentre invece insomma si mugugna un po' se uno è trattenuto in Italia per esigenze di servizio o a volte esigenze di salute, insomma. Isabella, grazie. Per oggi siamo giunti alla fine del tempo, ma ci rivediamo anche domani. Lancio una canzone sull'Africa con Crosby, Stills & Nash, Marrakesh Express. E noi ci rivediamo domani. Grazie. Ciao. Cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days that lie ahead bring us back to where they've led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh, all on board. Saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train to Casablanca, going south. Blowing smoke rings from the corners of my gold cups hang in the air. Charming cobras in the square. Stretch your leathers, we can wear at home. Well, let me hear you now. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All on board. E rieccoci, bentornati per i saluti di fine puntata che vi preannunciano anche le nostre prossime rubriche. Oggi parliamo di sempre dialoghi sulla cittadinanza, dove ho intervistato il nostro garante regionale Antonio Iagnello, che ci presenta i dati sulla sua attività svolta nell'anno 2020-21 tra la realtà e la criticità della Dozza di Bologna. Quindi, come sempre, scriveteci, redazioneliberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me che sono Caterina, da Antonella Cortese, da Nea Flacco e da Diana Botta, la nostra tirocinante. A domani e buona giornata. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.